10 secondi di terrore. Grazie a Calderoli vi facciamo tutti fuori, funerali con i fiori, tu ringrazia quei signori, ce n'è uno per te, hai guardato la mia tira, e anche uno per te, tu scavalchi nella fila, e poi uno per te, hai la macchina più figa, e anche uno per te, e te, e te, e te. Bella Calderoli, vi facciamo tutti fuori, vi facciamo tanti fuori, tu ringrazia quei signori. Fra nascosta sotto il letto, grossa sete di violenza, prendo il ferro dal cassetto, Dio non posso farne senza, me lo porto sempre addosso, lui mi fa sentire in forma. Grazie ai mega della Lega, questa splendida riforma è legittima difesa. Lo decido io stesso, a seconda dello screzio, paura del diverso, il sogno di Borghezio, e non basta tanta merda. Il messaggio fatti un'arma e sta allerta. Difetti e lobby prefrontali, prenotati criminali, sclerano pure i normali. Violenza domestica, grazie ai parlamentari, cose come più omicidi accidentali, più vendette mafiose, come puoi fare le leggi, profetizzi secessioni, come puoi stare nei seggi, organizzi gli squadroni. Io pensavo che lo Stato fosse bravo, io pensavo che lo Stato garantiva il diritto alla vita. Grazie a Calderoli vi facciamo tutti fuori, funerali con i fiori, tu ringrazia quei signori, ce n'è uno per te, sei vestito in modo strano, e anche uno per te, non capisci l'italiano, e poi uno per te, guardo anche sotto il divano, e anche uno per te, e te, e te, e te. Bella Calderoli vi facciamo tutti fuori, vi facciamo tanti fuori, tu ringrazia quei signori. Strategia della tensione, sì. La spesa all'armeria e la famiglia mia un plotone d'esecuzione. La storia degli immigrati non fa paura più. Dai padri i figli imparano a togliere la sicure. Boom. E per la Lega è un successo mettere un ferro in mano a chi non sa pronunciare una Smith & Wesson. Qua tutti che vogliono la stella da sceriffi accoltellano la madre e dopo incolpano i califfi. L'ansia dell'uomo nero è la radice dell'odio per lo straniero. Può integrarti via la barba e via il velo, e quindi spara chi ha rubato il suo posto sul bus, sì. Spara chi non mangia polenta ma couscous. E vai dal via alla ronda quando è scuro, hey. Si toccano il cannone, fra così finalmente ce l'hanno duro. Un colpo a tutti, la legge del Far West resta agli eredi, agli ospedali, a tutti quelli che si sparano nei piedi. Oh, grazie a Calderoli vi facciamo tutti fuori, funerali con i fiori, tu ringrazia quei signori, ce n'è uno per te, hai guardato la mia tira, e anche uno per te, tu scavalchi nella fila, e poi uno per te, hai la macchina più figa, e anche uno per te, e te, e te, e te. Bella Calderoli, vi facciamo tutti fuori, vi facciamo tanti fuori, tu ringrazia quei signori. Pronto, pronto. Grazie a Calderoli, vi facciamo tutti fuori, funerali con i fiori, tu ringrazia quei signori, ce n'è uno per te, sei vestito in modo strano, e anche uno per te, non capisci l'italiano, e poi uno per te, guardo anche sotto il divano, e anche uno per te, e te, e te, e te. Bella Calderoli, vi facciamo tutti fuori, vi facciamo tanti fuori, tu ringrazia quei signori. Beh, di questo regime alla faccia della liberazione che non garantisce nessuna vita a nessuno. Spedisce tante armi per garantire la non vita in vari paesi, in Ucraina, in Russia, in Siria, in Israele, la striscia di Gaza. È il regime italiano che manda le armi lì, sembra al terzo posto. Ecco cosa garantisce. Si chiama un po' il regime oggi, ma c'è qualcuno che ci dice qualcos'altro. Senti qua. Era Ennio. Sì, questi erano i Club Dogo con Spaghetti West. Pian piano salgo. Abbiamo fatto partire piano piano, eh. Nessuno del mondo è il mixer di casa. Quel passato che affiora. Mixer per di là. Scatti di rabbia e tensione non regge più. John lo sa, 70 anni e tornerà ad abbracciare il suo fucile. Se deve andrà un partigiano e lotterà, c'è pietà. Il primo colpo l'ha sparato qui. Dritto in faccia, si scoppia in faccia. A sangue freddo in pieno sole. Il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male e poi la prima volta ti fa male e poi libera. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. Il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male e poi libera. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. Andiamo a scattare serrate. Non avrete paura del buio, vero? Signor tenente? Signor tenente? Sì? Chi è stato? Chi è stato? Tutti! Sì, tutti, bravo! Tutti! Ci ha rotto le palle! Per carità, ragazzi, non fate così! Andate! Si sono squagliati tutti quanti. Si fermò, venne, il tempo si quelli di prima di Africa United, quel partigiano John, ma già lo sapevate. Questo è X. Rilassati un attimo, rifiata per capire, tengo tutti in ostaggio tipo Tupac Amaru in Perù. Se non mi senti su one two, forse per questo e sopra questo. Parto adesso se la cosa è chiara, la costa è il mio schieramento. Per chi lo sente quando è in combattimento, se d'acciaio fuori e d'oro dentro, per chi gli vale tanto. Gli infami scappano quando pizzica un granchio. Zero favori per chi ci marcia, fare i colpi sotto la cappa che ci schiaccia. La mattina il cuore in bocca, non sto tranquillo. La borghese suona il campanello, ma cucina la vita. Un po' la scegli, un po' te la ritrovi. E se ti sgarrano non li perdoni, cerchi soluzioni là dove nessuno le dà. Cercherai di dare tanto a chi più di tanto non c'ha. La storia si fa scivolosa e profonda. Non guardare chi galleggia, non c'ha peso, non affonda. Per un tesoro scava per terra, se la pelle è dura è perché mangi una frega di merda. E dove sto? I più forti sopravvivono. Quando si chiedono chi è che piange, se si ridono c'è una risposta. E questo pezzo io gli ho dedicato. L'inferno brucia solo per chi è un dannato. Forse uno sbaglio, forse un abbaglio, ma questo è il mio racconto. E finché i soldi ci hanno in mano il mondo, finché dicono che è un malattico, finché la gente non sa qual è il vero nemico. Fra, forse un abbaglio, forse uno sbaglio, ma questo è il mio racconto. E finché i soldi ci hanno in mano il mondo, finché dicono che è un malattico, finché la gente non sa qual è il vero nemico. Ma ci sarà qualcuno che pensa bene a quel che dico? Qual è la via giusta per capire dove sta il nemico? Insegue, ascolta, dietro sorprende. Dove stanno i bastardi lo so, lo tenga a mente per sempre. Comunque vada, è impresso in gocce sulla pelle. Scorre dentro il sangue ribelle, goccia per goccia. Mi faccio forza con la costa, solo che mi devo un po' fermare a pensare sulle scelte che faccio, le ragioni che do, sugli scazzi che aumentano come gli anni che c'ho. Perciò guardo l'alba che sorge dal mare, nasce un nuovo giorno, ma domani sarà sempre uguale. Senza una sosta, senza chi soltanto ci vuole rifare. Per tuo fratelli, ma che posso fare? Pugni serrati, si riparte da mo', perché comincio un conto alla rovescia. Mo se ci riesco, comba, rimetto a zero la lancetta. Ogni mezzo è necessario per combattere ciò che m'aspetta. Aspetto il peggio e nulla di più, ed ogni canto di battaglia è per tirare la mia gente un po' su. Ma è tutta rabbia che si infrange contro un muro di gomma della gente che mi vive intorno e non capisce qual è il vero guadagno quando smazza l'eroina d'un fratello che gli muore a fianco. Sì, il tempo e se suona la raia suona per questo, compà. Luix, il tempo si ferma. Costa, costa. Il tempo si ferma. Se non è giusto quello che dico, guarda più in fondo per capire dove sta il nemico. Forse uno sbaglio, forse un abbaglio, ma questo è il mio racconto. E finché i soldi ci hanno in mano il mondo, finché dicono che è un malattico, finché la gente sbaglio, forse un abbaglio, ma questo è il mio racconto. E finché i soldi ci hanno in mano il mondo, finché dicono che è un male antico, finché la gente non sa qual è il vero nemico. Fra, forse un abbaglio, forse uno sbaglio, ma questo è il mio racconto. E finché i soldi ci hanno in mano il mondo, finché dicono che è un male antico, finché la gente non sa qual è il vero nemico. adesso devo pagare per sentire il testo. Avete capito il testo? L'ultima frase l'avete sentita. E va bene, l'UX stavo dicendo i Nokia. Nokia lo devo dire tra poco. Calendario 20 ne diciamo solo uno, perché è la puntata tema, puntata da casa, registrazioni approssimative. Milano, partigiano ogni quartiere, dalla regia mi dicono di abbassare la voce, più allontanare il microfono. Partigiano ogni quartiere, Parco della Chiesa Rossa, 24-25 aprile, chiaramente 25 aprile è la data più partecipata, il post manifestazione dalle 18 in poi, gruppi, ve ne dico 4 perché in realtà c'è una lista lunghissima tra interventi e quant'altro. Inoki è il headliner, diciamo, come si dice in cerco. Mephisto Brass, un ensemble di musicisti. Bull Brigade, a sorpresa, a Torino, che però suona in acustico. Questo un po' spiace, però vabbè, curiosi. E l'intramontabile Miss in Red, che fa girare un po' di dischi. Questo è quanto. E a proposito di partigiani in ogni quartiere, lì in zona ce n'erano un sacco. E noi Riverenza Punk subito, e ve la sparate così. E diciamo anche chi è. Ma la riconoscete tanto chi è. È un po' un fuoripista. Usuata pista. Vedo Zatter in mare. Saranno già sbarcati. Ci sono i tedeschi! Camerati, ci siamo anche noi! A terra! tedeschi stanno sparando sulla nostra postazione, signor tenente. Ma perché? Ma? Ma che sta succedendo, fornaciati? Che facciamo? Aspetta. Sì. Tento di raggiungere un telefono per chiedere ordine al colonnello. Prenda lei il comando, sergente Fornaciari. Dov'è il telefono? Cosa dammi è successo? Su, presto, metti chi sei che spara? Su, dai, peccio! Ma chi spara? Mamma sono mia. Sbarcati. Dammi la linea militare, presto! Il signor colonnello! Signor colonnello, tenente Innocenzi, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani. No! Allora tutto è finito, signor colonnello! Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare! Mi scusi, signor colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto. Quali sono gli ordini? Beh, vi spiazziamo tutti quanti, ragazzi. E tra l'altro Fornaciari, non so se l'avete sentita, ma la similitudine... Non era un caso, è tutto costruito ad arte. Potrebbe essere un richiamo, cioè lui è della zona un po' quella dei combattimenti, no? Del partito Pontremoli. Quindi da un fornaciare all'altro e qui continuiamo a spiazzarli con la resistenza. Ci hanno detto di. Qua è rischio licenziamento, perché sta accoppiando. Non suonare più. Non sappiamo neanche se abbia messo il pezzo giusto, magari tra le varie tracce, cioè lui, ma sapete che fanno remix di remix, qui da casa andando a cercare quella carbonella, forse. Questa sembra una versione romantica, ma ti può aprire, dai, il romanticismo. Sopravvivere, rock and roll. Vorrei sempre con la musica rock and roll. Al silenzio che c'è. Ciao, sei volto qui sotto la metropoli, rinchiusi in un metro che non parte mai. Sono show, niente più spettacoli, non si balla più, non si canta più. E allora rock and rolling per resistere, rock and rolling per difenderci, rock and rolling per non cedere mai. Oh, rock and rolling, sopravvivere, rock and rolling, con la musica, rock and rolling, al silenzio che c'è. Svegliati città, la versione che doveva andare in onda, ma con il... ci autocensuriamo da soli perché non era questo, sì il pezzo è questo, ma doveva andare l'originale, non questa sviolinata che è stata fatta 35 anni dopo da lui pensionato. E va bene, quindi andiamo subito di violenza con l'altro pezzo. Ma sì ragazzi, qui sempre più violenti. E qui sciogliamo le camere addirittura. Un gran sauna. Sì, abbiamo fatto un tris con i tristi primi, no? Comunque un po' all'ingrosso. A testa bassa affronto il bus ogni mattina, ma è un mezzo pubblico pure la ghigliottina. Io per pagarmi la marmitta catalitica mi son dovuto vendere tutta la macchina. Tanto sarà tutta corsia preferenziale per collegare ministeri, trattoriole, discoteche, osterie e boutique. corazzati. E ora che pure Benigni si è sposato, non ci sta più chi ci bestemmia sul mercato. Sciogliamo le camere per un mondo migliore, sciogliamo le camere con i caschi blu, sovrappoliamo sulla giunta di Milano. Di chi? Sovrappoliamo, amore tocca mille mano. Discorso all'italiano. Ci lascia tutti illesi, né vincitori né perdenti, solo offesi. È un grosso rischio procreare dei piccini, se me li tiri su un cofilm di Oltorini. Sopravvoliamo sul cinema italiano. Di chi? Sopravvoliamo su Baiano. Sopravvoliamo su Sonano. Di chi? Sopravvoliamo e vai. Allora, 24 aprile, cos'è il fascismo? Facciamo una piccola cosina di storia lì, no? Allora, il fascismo nasce in Italia negli anni 20 ed è un movimento sociale perché è creato da un socialista, il direttore dell'Avanti, come era all'epoca, dopo essere stato anarchico dirigeva l'Avanti, il quotidiano socialista, e forma i fasci di combattimento. Cosa fanno questi fascismi? Cos'è il fascismo fondamentalmente? Sono mercenari, personaggi, gente prezzolata che al servizio del capitale combatte l'antagonismo. Questo è il fascismo nella storia, cioè gente che ha difeso il capitale, per questo è stata premiata con posti di potere, con l'esercizio della violenza, col denaro e via dicendo. Un po' simile alla Germania nazista, anche quello si porta nazionalsocialista il partito, però insomma sono percorsi un po' simili. E poi diciamo questo tipo di movimentazione sociale va a difesa del capitale. Esiste ancora il fascismo oggi? Sì, nel 2023 esiste la stessa cosa, che fa lo stesso lavoro con la stessa mazza. 2024, mi correggo perché 2023-2024, però diciamo che negli ultimi decenni questa cosa esiste. E chi è che va in giro armato, che inquina la terra, che controlla la produzione, che può mettere le bombe, che può intimidire, che fa, che disfa, che è pagato per questo e che è protetta dal potere? La mafia. Quindi il mascismo è una crasi tra fascismo e mafismo. Il fascismo esiste ancora oggi con la stessa intensità da allora, si chiama mafia. Quindi a tutti i combattenti e i lottatori auguriamo una buona lotta contro il fascismo attuale, quello per cui hanno votato in Lombardia, la regione. 200.000 dipendenti hanno votato per loro. Ma vabbè, ne sanno più di me. Uniamoci sulla montagna. Dalle belle città. No. Investiresti mai con un tir tuo fratello? No. Scaricheresti mai film da internet? Ammazza. Scaricare film da internet è reato. Sì, lo so, ti ammazza, nel senso sì, a voglia. Ah sì? Scarico tanti. Ma pure stasera dovrei trovarne uno già scaricato perché sta lavorando al computer da stamattina. Ah, come non detto. Fatto. fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo. Franchi, per quelli che sono stanchi o che sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui vent'anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. È morto Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Ovidio Franchi, compagno Frotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa. Non differiamo da molto, non differiamo di molto dalla trasmissione in diretta, anche se siamo in differita, assoluta differita di un po' di giorni. Speriamo che insomma riesca a andare in onda, poi riascoltiamo tutto per capire se è venuta una cosa. Ma tanto ve la mandiamo lo stesso. Ma infatti ve la mandiamo lo stesso, cioè, quindi è giusto per capire cosa vi mandiamo. Siamo ai saluti. Mercoledì arriva questa e poi magari adesso abbiamo anche dei saluti speciali. E però poi tra due mercoledì, probabilmente in diretta dal vivo per ore, tutta la notte, chi lo sa. Un attimo che ci vengono a salutare qui in regia. Vabbè, comunque tra sì, mercoledì prossimo di ferita, poi tra due mercoledì non so se sarà un'altra registrazione o una super diretta, questo non lo sappiamo ancora. Quindi case in ogni quartiere e biciclette in ogni quartiere, monopattini in ogni quartiere. E quindi ultimi due pezzi, con un altro piccolo short da un film, e vi salutiamo. Sono sorpreso, ho sbagliato tutto, accidenti. Allora, mercoledì prossimo sicuramente qualcos'altro, dal vivo no, questo lo vedremo. Detto questo, maestro, vada pure. Alla prossima, all'ottava puntata. Voilà là.

ma Salerma? No, il fatto è che noi diranno, noi diranno.